Sì, beh, primo così, i primi risultati della manifestazione, beh, chi c'è stato ha visto la straordinaria partecipazione, soprattutto da parte dei vari comitati territoriali dell'acqua, che lavorano sui territori e si sono mobilitati ormai da anni, e veramente quello è secondo me il dato più importante della manifestazione di sabato scorso, il fatto che appunto ci sia un ulteriore rafforzamento di tutte le vertenze in corso in Italia, che oggi sono soprattutto si concentrano sui referendum e sulla campagna referendaria, ma che non dimentichiamo lavorano anche per contrastare la privatizzazione che è già in atto, e quindi questa doppia attività viene svolta quotidianamente da tutte e tutti nelle varie regioni e nelle varie province, e veramente erano rappresentati in un numero incredibile, era lo spezzone più grande della manifestazione, credo anche il dato più interessante rispetto al fatto che c'è un numero veramente enorme di persone che su questa battaglia ci sta e lavora e crede che sia una battaglia che si guarda all'acqua come bene comune, alla ripubblicizzazione del servizio idrico, ma che la intende anche come una battaglia, diciamo, più generale rispetto al contrasto delle politiche neoliberiste in Italia. Ecco, è una battaglia paradigmatica rispetto al fatto che da diversi anni, se non decenni, le politiche dei vari governi che si sono succeduti stanno portando al fatto che tutto venga messo sul mercato e tutto venga privatizzato, e che quindi si stia a quell'unica logica. Ecco, sì, la logica del privato funziona, il pubblico no. Sì, diciamo, questa è un po' la logica che è stata vincente sull'opinione pubblica fino a qualche anno fa. Negli ultimi anni non ha più così grande appeal sulle persone questo slogan privato è bello e pubblico invece è brutto e inefficiente. Perché appunto a partire da metà degli anni 90 sono state privatizzate tutte le grandi aziende statali, e quindi oggi le persone vivono sulla propria pelle che cosa vuol dire la privatizzazione e la mercificazione di tutti i beni comuni, dall'acqua all'energia e a quant'altro, e quindi ha scoperto quello che è il reale meccanismo, no, che si cela dietro alla privatizzazione, il fatto che c'è qualcuno che si accaparra la gestione di un bene per esclusivamente farne fonte di profitto, e questo va a scapito da una parte della qualità del servizio, questo ovviamente si taglia sul costo del lavoro, si taglia sulla qualità del servizio, si aumentano le bollette e diventa, diciamo, sempre più grande il distacco tra il cittadino e colui che deve garantire il servizio. E quindi diciamo, ecco, le persone iniziano a capire che la privatizzazione fa solo, diciamo, il bene di qualcuno e di pochi e non della collettività. Quindi si sta invertendo la rotta, e per questo a nostro avviso questi referendum che parlano di acqua e nucleare sono fondamentali, perché potrebbero sancire proprio questo, diciamo, questa inversione di rotta, questo anche cambiamento culturale rispetto, no, al processo di privatizzazione che è in atto in Italia, ma che ovviamente è un qualcosa che è una tendenza di carattere globale. E quindi dalla manifestazione, in particolar modo per quanto riguarda tutti i movimenti per l'acqua, noi appunto lanciamo questa campagna referendaria che proverà a parlare a tutto il paese, quindi una vera e propria campagna elettorale che si muove dal basso e che tenta di parlare a tutte le persone per convincere del fatto che si parla di acqua, si parla di nucleare, ma sostanzialmente si parla anche di democrazia e di un altro modello di società e soprattutto di un altro modello di pubblico che si vuole, non un pubblico appunto assistenzialista o clientelare o corrotto, ma un pubblico che deve necessariamente, diciamo, essere pubblico in quanto tale, ma è appunto una condizione non sufficiente perché appunto sia un servizio garantito a tutti, se non altro che è necessaria anche la partecipazione attiva delle comunità locali alla gestione dei beni. E quindi ecco, è questa la sfida che ci troviamo di fronte oggi. E questi 2 mesi e mezzo che ci separano dalla data del voto ci darà la possibilità di far sì che il tema dell'acqua sia al centro del dibattito pubblico nel paese. Perfetto, dunque gli appuntamenti ovviamente, come già hai ripetuto, sono tutti quanti in via di costruzione. Un'iniziativa che sicuramente ci può dare una mano e che è stata lanciata proprio alla manifestazione, tant'è che era diciamo colorata di blu dalle bandiere dell'acqua, è appunto l'iniziativa Una bandiera su ogni balcone, nel senso che noi non abbiamo la possibilità di accedere ai grandi media per diciamo così una botta solo informare centinaia di migliaia di persone, e quindi questo la bandiera dell'acqua diciamo esposta ai balconi, che quindi dà visibilità in tutte le strade, è uno strumento appunto sia per informare del fatto che ci saranno dei referendum, ma anche uno strumento per cui chiunque magari che è più occupato o comunque non riesce a contribuire quotidianamente, e con questo piccolo gesto può dare il proprio sostegno e quindi partecipare a questa battaglia. Quindi pensiamo appunto di diffonderla quanto più possibile qui in sede, dove è la segreteria della campagna referendaria, ci sono a disposizione, ma poi anche nel resto d'Italia ogni comitato ne ha a disposizione e le sta diffondendo. Insomma, questa è una cosa su cui noi puntiamo molto, perché la scarsa disponibilità, anzi diciamo l'assenza totale di fondi per accedere ai grandi media, e anche poi è anche una scelta politica e strategica il fatto che appunto vogliamo che sia effettivamente una mobilitazione dal basso e che questo renda possibile la vittoria, e questo è un piccolo strumento di cui insomma pensa che tesoro. Allora fai una cosa, Paolo, scusami, visto che hanno appena chiamato per sapere dove si possono prendere le bandiere, dunque lo strumento radio dimostra ancora una volta di funzionare splendidamente, dai anche qualche indirizzo, allora o diamo direttamente il sito dove poi da là potete tirarvi giù qui, i comitati. A Roma si possono avere le bandiere a via di Sant'Ambrogio 4, al secondo piano. Noi sostanzialmente stiamo sempre qui alla sede della campagna referendaria, quindi qui è possibile venire a prendere con una piccola sottoscrizione le bandiere dell'acqua, e poi anche online sul sito www.acquabenecomune.org o www.referendumacqua.it è possibile anche diciamo così sempre a seguito di una piccola sottoscrizione riceverle direttamente a casa. Ecco, quindi chi è magari un po' più lontano può farlo online, oppure può venire anche a conoscerci qui in sede a via di Sant'Ambrogio 4. Sì, ricordiamo che tra l'altro mettere le bandiere in balcone almeno fanno da contraltare al fatto che c'è sta gente che ancora non ha tolto il tricolore nonostante la festa sia passata da un paio di settimane, dunque magari qualcuno riesce pure a capire che la bandiera italiana va tolta dalla finestra, anche perché è pure bruttina da vedere, soprattutto in questo periodo. Infatti un'altra cosa diciamo che potrebbe essere: sostituiamo la bandiera italiana con quella dell'acqua, che mi sembra molto molto meglio, visto anche i venti di guerra che spirano diciamo dalle nostre parti. No, non se ne parla, dunque non c'è nessuna guerra in atto, come ben sai. No, perfetto, io ti ringrazio e ci risentiamo quanto grazie prima. Grazie a te Fabrizio, a presto, a voi della radio. Ciao, ciao. Dunque abbiamo appena sentito Paolo Carzetti del Forum per l'Acqua Pubblica.